Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente parleremo anche del nuovo botta e risposta, diciamo così, che si è aperto tra Dijsselbloem, tra il governo italiano e Dijsselbloem, che è successo sostanzialmente il presidente dell'Eurogruppo, cioè dei paesi dell'area euro, Jerome Dijsselbloem, che ricordo già quando non lo era semplicemente era un commissario europeo, se non ricordo male. Comunque già se ne uscì con frasi, a mio avviso, assolutamente fuori luogo sulla necessità di un austerity, sulla Grecia e quant'altro. Lo criticammo allora, adesso vado anche a ritrovare le frasi di Dijsselbloem. Però lui ora è presidente dell'Eurogruppo e ha detto, ha frenato rispetto alla proposta della Commissione dell'Unione Europea per un maggior spazio di manovra per sostenere la crescita, dicendo: non siamo ancora abbastanza stabili per lasciarci andare. Ora il ministro Calenda e poi anche Renzi hanno ribattuto: Dijsselbloem sta prendendo una gigantesca cantonata, cosa che fa abbastanza regolarmente. Poi Renzi ha aggiunto: Dijsselbloem non ha consapevolezza di cosa accade in Italia. Tra l'altro invece la posizione del presidente dell'Eurogruppo, la difesa del portavoce della Commissione Europea, dice: attenzione, la Commissione è pienamente nel suo ruolo, rispetterà le responsabilità previste dalla legge. Che cosa è successo? Insomma, sostanzialmente Dijsselbloem, l'accusa mossa dal presidente dell'Eurogruppo è che la Commissione Europea rischia di lasciare andare il controllo sui conti dei vari paesi, ma è stata l'occasione per riaprire un confronto, chiamiamolo così, io direi anche più scontro, tra governo italiano e Bruxelles. Ne parleremo in apertura nel giorno in cui, qui vengo invece ai mercati finanziari, a dimostrazione che c'è tantissima speculazione su questo voto referendario. Non voglio rifare la puntata di ieri, ci mancherebbe, però attenzione, perché al di là di quello che scrive Financial Times, oggi a mio avviso la risposta che dà il Sole 24 Ore è più che corretta. Avremo il nostro ospite anche Donato Masciandaro, ma la risposta la dà anche Alessandro Graziani, dicendo sostanzialmente che insomma, bisogna stare attenti ai luoghi comuni che anche di là dalla Manica ogni tanto imperano sullo stato delle nostre banche. Ma detto ciò, che sia pura speculazione, lo dimostra il fatto che oggi il Monte dei Paschi guadagna il 18%, ieri ha perso il 14%. Allora, o era sbagliato ieri o è sbagliato oggi, o forse è sbagliato vendere e fare calare un titolo il 14% se il giorno dopo deve risalire al 18%. A meno che non vogliamo ammettere che si tratta di grandissima speculazione che il nostro referendum offre a chi vuole speculare, ai fondi hedge in primo luogo, agli hedge fund, certo, ma non solo. Discorso analogo potremmo farlo per UbiBanca, più 5,60, non è che una banca un giorno perde il 4 e il giorno dopo guadagna il 5, non ha nessun senso, diciamo, come logica di mercato. Popolare Emilia Romagna, più 4,60, Mediobanca più 4,40, Pop Milano più 3,85, Unipol più 3,80, Intesa San Paolo più 3,70. Anche qui non voglio essere ripetitivo, ma perché ieri perdi il 3 e oggi guadagni il 3,70? Cosa è successo di diverso? Nulla, solo speculazione. Banco Popolare più 3,5, Generali più 3,30%. Chi perde oggi? Tenaris meno 1,70, Saipem meno 0,70, Fiat Chrysler meno 0,40%. In continuo tra i titoli, in questo caso non bancari, Salvatore Ferragamo guadagna il 4%, le Poste Italiane il 3,60%. Cito anche Unicredit, dove si è formato consorzio di garanzia per l'aumento di capitale, più 3%, Finecobank più 2,94%, Euro che ritorna a quota 1,06, Milano guadagna l'1,80, mentre Parigi guadagna lo 0,80, Francoforte lo 0,16, Londra perde mezzo punto percentuale, il Dow Jones è invariato. Allora, dicevamo, come temi il confronto scontro di nuovo tra Roma e Bruxelles. Tra l'altro il premier Renzi ha detto che in caso di vittoria sia referendum il giorno dopo, quindi di mantenimento, se ben capisco il ragionamento del suo governo, il giorno dopo chiederà al Parlamento di avere il voto per mettere il veto al bilancio europeo se l'Europa non inizia a far rispettare le regole sui flussi migratori e quindi che non possono essere tutti scaricati sull'Italia. Allora, che lo faccia Renzi, così evitiamo le polemiche, che lo faccia un altro Premier, penso che sia una cosa corretta, visto che da anni che giustamente ci fanno le pulci e controllano ogni sforamento dello 0,1-0,2 sul deficit, ritengo che sia corretto chiedere all'Europa un maggior rispetto da parte dei paesi degli altri obblighi presi, non solo del deficit. Le quote di pertinenza di ogni paese sui migranti, ci sono paesi soprattutto dell'est Europa che dovrebbero ricordarsi cosa significa arrivare per ultimi ed essere accettati, che non stanno rispettando. Allora, visto che noi siamo contribuenti netti, cediamo più di quello che riceviamo, a mio avviso una posizione più forte, visto che fanno orecchie da mercanti e tanto nonostante l'accordo e gli obblighi europei non li vogliono rispettare, forse una posizione più forte l'Italia dovrebbe prenderla comunque, che lo faccia Renzi o che lo faccia qualcun altro. Anche di questo parleremo, dicevo, della situazione bancaria italiana e dell'Ampass, come scrive oggi Donato Masciandaro sul Sole 24 Ore, in cui vivono non solo la Banca Centrale Europea, ma le banche centrali generali. La Federal Reserve deve gestire, diciamo, l'incognita Trump nei suoi rapporti con la Fed. La Banca d'Inghilterra deve gestire l'incognita Brexit e quello che vorrà fare il governo di Theresa May per accelerare o rallentare i tempi della Brexit. E anche la BCE non ha un periodo così calmo, mettiamolo, visto che dalla Germania, che inizia, diciamo, a entrare nella fase elettorale, arrivano parecchie richieste di sospendere, di terminare a marzo il quantitative easing, quindi lo stampaggio di euro, l'aiuto finanziario da 80 miliardi che Mario Draghi dà ogni mese in primo luogo alle banche, ma insomma alle economie europee. E quindi sono banche centrali sotto i riflettori, non dico tra due fuochi, ma sicuramente sotto i riflettori. Parleremo chiaramente anche del Monte dei Paschi di Siena e della situazione bancaria italiana e torneremo sulla riforma Madia, perché ieri siamo riusciti solo a accennare, a iniziare il tema, cosa capita adesso dopo il blocco da parte della Consulta della riforma Madia. 349-238-6666 per sms e whatsapp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora andiamo con le altre notizie della giornata. Per quello che riguarda, partiamo sempre dal fronte internazionale. Domani c'è attesa appunto per questo vertice OPEC non OPEC. Oggi il petrolio scommette, o meglio il mercato del petrolio scommette, che non si raggiungerà un accordo. Cosa è successo? Sembrava fatta. Anzi, io, se non fanno l'accordo, personalmente da italiano sono più contento, perché ci costa meno il petrolio. Poi certo i margini delle compagnie petrolifere vanno in direzione opposta, ma doveva esserci l'accordo OPEC non OPEC. La Russia era pronta a firmare l'accordo. L'Arabia Saudita, da quello che abbiamo capito, si è messa di traverso nel finale, chiedendo anche una riduzione maggiore della quota iraniana, e adesso si affievoliscono ulteriormente le speranze di un accordo, perché la Russia non andrà a Vienna domani e quindi manca il principale paese non OPEC. E tra l'altro le distanze fra i sauditi e le posizioni iraniane e irachene si sono ampliate, e quindi l'idea di tagliare 1.200.000 barili al giorno si sta allontanando, tant'è che il prezzo del petrolio torna a $45 al barile e perde il 4% oggi. E l'Iran comunque ha detto che non taglierà comunque la sua produzione di petrolio. Andiamo agli Stati Uniti, dove il PIL del terzo trimestre è stato rivisto al rialzo, beati loro, dal 2,9 al 3,2%, quindi dato migliore delle previsioni, ma soprattutto la fiducia dei consumatori americani è volata a novembre al livello più alto dal luglio 2007. Questo è interessante anche perché è stato il mese dell'elezione di Trump, quindi a 107 punti contro i 100 di ottobre. Ripeto, livello più alto dal luglio 2007, quindi ben prima dello scoppio della crisi finanziaria. Allora, ancora, per quello che riguarda la Gran Bretagna, oggi Theresa May ha annunciato che vuole mantenere la sua promessa fatta nei mesi scorsi di contrastare la cultura dell'avidità e ha proposto un insieme di misure restrittive per mettere dei tetti agli stipendi d'oro dei top manager. Strenua l'opposizione nel mondo del business e ci vuole, ovviamente, era ovvia, diciamo, in qualche modo. Theresa May, primo ministro britannico, vorrebbe una riforma in cui si obblighino le società a rendere pubblico il divario salariale tra le retribuzioni dei boss e quelle dei dipendenti e offrire agli azionisti una voce più forte sui cospicui pacchetti remunerativi degli alti dirigenti, fino alla possibilità di imporre un veto. Allora, io non so se questa sia la soluzione giusta, ma che qualcosa, per essere buoni, non stia funzionando, non abbia funzionato e abbia generato anche lo scopo, certi rischi nella cosiddetta politica delle remunerazioni aziendali, è poco ma sicuro nel mondo della finanza e non solo. Sappiamo che alcuni rischi erano stati presi prima del 2008 come strumenti derivati, perché legavi tantissimo della tua retribuzione, il top manager legava tantissimo all'andamento azionario, per esempio, quindi era tentato di pompare le azioni mettendo a rischio poi il futuro della società stessa. Ma tuttora quello che noi abbiamo visto è che il divario tra quanto guadagna il top manager e quanto guadagna il dipendente normale è tornato a non ampliarsi negli Stati Uniti, ritornati ai livelli pre-crisi, che in questo momento i comitati di retribuzione funzionano male, maluccio in molti casi, e che gli azionisti scoprono sempre dopo, vale anche per le banche di casa nostra, mi riferisco a quelle fallite o quelle salvate, scoprono sempre dopo qual è stata la buona uscita o la remunerazione che si sono, diciamo, attribuiti i manager. Quindi che da qualche parte il problema vada affrontato, penso non ci siano dubbi. Non so se la soluzione di Theresa May sia quella più indicata. Oggi il sì italiano riceve l'endorsement di Schäuble. Ora la battuta mi viene troppo facile, qui comunque non la pensi, non vorrei che fosse il bacio della morte, perché quando il più, diciamo, pro austerity, forse anche antipatico nei confronti delle posizioni che prende sull'Italia, il più radicale dei falchi del governo tedesco, Wolfgang Schäuble, ministro delle finanze, dice: spero che vinca Renzi, voterei per lui. Io adesso non so se gli stia facendo un favore o no. Comunque, questa è la dichiarazione, mentre sempre Schäuble oggi sulla Brexit ha detto: beh, la Gran Bretagna non potrà prendere una UE, un'Unione Europea alla carte, cioè non è un menu in cui sceglie lei quello che le va e invece dice no a quello che non le va. Su questo, a mio avviso, l'Europa, se vuole ancora esistere, deve mantenere una posizione fermissima, cioè hanno fatto una scelta, gli inglesi adesso non possono chiedere alcune cose sì e altre no a loro piacimento, sono un po' para inglesi delle volte. Qualcuno mi chiede se esiste una posizione ufficiale della Commissione Europea riguardo allo spaventoso surplus commerciale tedesco. Sì, esiste, se non ricordo male, ma non ha avuto nessun effetto. È stato ricordato la Germania, che ha un avanzo commerciale troppo grande, oltre il 9% del PIL, quando l'Europa al massimo ti concede il 6%. Però non mi sembra che questo abbia portato nessuna vera reprimenda nei confronti della Germania, no? Qualcuno fa la battuta su Schäuble da falco a gufo, beh, vedremo se è una battuta corretta. Allora andiamo avanti. Per quello, dunque, oggi c'è l'istituto tedesco che misura la possibilità che i paesi dell'area euro escano dall'euro, si chiama Sentix, sviluppa questo indice e dice che il rischio che l'Italia esca dall'area euro balza nelle percezioni degli investitori al 19%, segnando il massimo dal giugno del 2012. Ce ne faremo una ragione. Tra l'altro, il rischio che qualche paese esca in generale dall'euro è al 24% e ci sono nuovi candidati, anche Olanda e Francia. Sempre in tema di referendum, faccio notare che la Banca Centrale Europea sarebbe pronta a un intervento temporaneo sui titoli di Stato italiani nel caso in cui l'esito del referendum dovesse provocare un'impennata dei rendimenti, cioè un eccesso di offerta rispetto alla domanda, e quindi la BCE si prepara, se ho ben capito, a acquistare titoli italiani in modo da tenere basso il rendimento, non far schizzare il rendimento, quindi lo spread italiano, un sostegno comunque limitato. Se invece l'Italia dovesse necessitare, dopo il voto, di un sostegno più a lungo termine, dovrebbe attivare il meccanismo europeo ISM, quello che ha usato per esempio la Spagna, insomma. Quindi il meccanismo di salvataggio dedicato a un paese. Ancora due notizie per quello che riguarda, anzi più di due, tre notizie diciamo. Allora, la prima, il tesoro in asta oggi 3 miliardi 250 milioni di BTP e i tassi sono saliti ai massimi dal giugno 2005, è ancora basso il tasso, però è all'1,97% per i BTP a 10 anni e 0,91% per i BTP a 5 anni, quindi scadenza 2021, gli ultimi 2026 i primi. Tra l'altro su questo devo dire che l'andamento dello spread oggi invece non è salito, è anche sceso a 180 punti. Per quello che riguarda il nostro paese, faccio anche notare che qualcuno mi fa domande su Unicredit. Sì, è pronto il consorzio che deve garantire l'aumento di capitale di Unicredit. Le banche in prima fila per l'operazione sarebbero 5. Con l'unica italiana Mediobanca e poi Morgan Stanley, UBS, JP Morgan, Merrill Lynch come Joint Global Coordinator, in discrezione di oggi del Messaggero. E tra l'altro, secondo quanto si apprende da fonti finanziarie, Unicredit avrebbe inviato le lettere a 9 grandi banche internazionali candidate, le lettere di invito all'operazione a 9 banche candidate a far parte del consorzio di garanzia. Allora, ancora qualche notizia. Una riguarda la presenza di multinazionali a controllo estero in Italia. Sono aumentate di 404, sono 404 in più nel 2015 rispetto al 2014, per un totale di 13.570 imprese, che sono comunque poco più della metà delle multinazionali a controllo italiano presenti oltre confine. Cioè, sono più, contrariamente alla vulgata e al luogo comune, le società controllate dall'Italia che stanno all'estero delle società in Italia controllate dall'estero. Noi infatti abbiamo 22.388 imprese che hanno controllo italiano e in realtà sono imprese estere. EasyJet annuncia invece, sempre in Italia, un incremento dell'8% nei posti, 200 assunzioni, 19 milioni di posti offerti nel 2017 fino a 200 destinazioni. Per quello che riguarda invece il mondo dell'aeronautica, Airbus ha annunciato un piano di tagli da 1.164 posti di lavoro in Europa e la cessazione delle sue attività nel centro di ricerca vicino a Parigi, Suzanne, se non ricordo male, e questo appunto il direttore delle risorse umane. In Italia, visto che qualcuno me lo chiede, sì, c'è un legame tra quello che ha combinato ieri, diciamo così, l'Apo Elkan e il Lapo perde il pelo, ma non è vizio, c'è questa battuta, per cui ecco che la faccio, tra quello che ha combinato l'Apo Elkan e come va il titolo suo. La creatura imprenditoriale di l'Apo Elkan si chiama infatti Italia Independent, me lo chiedete anche via SMS. Si era mossa abbastanza male in borsa, ha perso il 5% e ha toccato il minimo storico 2,7 euro. Di questo invece, però, e su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24 sulle 24 ore, oggi a firma di Alessandro Praterotti, trasmessi anche su RDS, proprio sulla ripercussione che è una vicenda del tutto privata, adesso al di là delle battute, del tutto personale, che è anche una vicenda, diciamo, umanamente di una difficoltà personale, mettiamola così, si ripercuote invece sul titolo in borsa. 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. Non bastavano le ansie sui tassi di interesse, sulle banche centrali, sul futuro dei nostri istituti di credito, sul referendum e su tutta quanta la tensione che circonda la geopolitica. Ed ecco lì che la Poelk conquista le prime pagine dei giornali, per il momento dei siti internazionali. L'arresto a New York e le gravi accuse di aver simulato un rapimento hanno infatti posto l'erede della dinastia Agnelli nuovamente sotto i riflettori, purtroppo quelli della cronaca, diciamo così, nera. È presto per sapere esattamente che cosa è successo a New York, quanto è vero e quanto è falso, perché tante leggende circondano poi i comportamenti di Lapo Elkar, però in realtà intanto un colpo duro l'ha preso, e l'ha preso proprio in borsa, dove la sua Italia Independent Group, la società che creò anni fa per produrre e commercializzare prodotti di abbigliamento, occhiali e di moda nello stile di Lapo, oggi ha perso addirittura il 3,4%, cadendo a 2,90 euro, un crollo molto forte se si pensa che in realtà il mercato borsistico italiano oggi in ripresa. Ma per la borsa, al di là degli aspetti giudiziari, anche quelli finanziari non sono esattamente in questo momento brillanti per Lapo. La sua Italia Independent, la società che ha quotato a Piazza Affari, vede infatti una contrazione in 3 anni dell'utile netto del 6,38%, però bisogna anche dire che sul fronte dei ricavi, grazie anche alla sua genialità del marketing, la società ha messo in cassa una crescita del fatturato del 34,77% medio negli ultimi 3 anni. Formule commerciali, mode, tutto passa. In questo caso l'unica cosa che resta sono le gesta di Lapo. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, devo dare un aggiornamento, spero che sia solo una notizia che poi va a esaurirsi. Perché è stata registrata una scossa di 4,4 gradi in provincia dell'Aquila. Adesso i nostri GR24 ci terranno aggiornati. Spero, ripeto, che si tratti solo. È da ieri che stiamo commentando, e anche stamattina, lo sciame sismico nella zona, ahimè, già nelle zone già colpite dal terremoto. Speriamo si tratti solo così. Di una scossa isolata, cosa devo dire? Vabbè, dai, ridiamo su. Adesso, in attesa di aggiornamenti, da chi mi scrive, da Italia Independent a Italia Dependent. Va bene, adesso qua. Però, ragazzi, è un po' come sparare sulla Croce Rossa, prendere in giro oggi. Ripeto, è un dramma, è un problema personale che ha una ripercussione anche sul titolo in borsa. Comunque, da Lapo il cane a Bruxelles. Allora, dopo il ministro delle finanze tedesco Schäuble, che aveva detto Bruxelles non assolve al proprio compito di controllare che i bilanci di singoli paesi europei corrispondano alle regole degli accordi europei, ha ragione Schäuble, non assolve a questo compito anche nei confronti della Germania, che ha tutti gli attivi fuori regola. Comunque, oggi il presidente dell'Eurogruppo, che è di nazionalità, se non ricordo male, olandese, e che già in passato, ai tempi della crisi greca 2012-2013, si distinse per essere più tedesco dei tedeschi. Gli olandesi in questi anni ci hanno abituato a essere, diciamo, molto più, quasi più autoritari sul fronte delle politiche di austerity dei tedeschi. Ha detto, nell'aprire le polemiche oggi, cosa ha detto? Ha detto sostanzialmente: attenzione, l'Europa della Commissione Europea deve stare attenta a girare la sua impostazione, quindi dei bilanci pubblici, in favore della crescita, e quindi non può critica l'ipotesi di dare una politica fiscale espansiva nell'ordine di 0,5 punti di PIL, una manovra espansiva da 50 miliardi a livello dell'Unione monetaria. L'Eurozona, dice Blum, è al quarto anno consecutivo di crescita diffusa, ma non possiamo essere autocompiacenti e dobbiamo essere sicuri che la ripresa si sostenga da sola. E attenzione, il problema è la differenza tra le situazioni dei vari paesi nell'Unione Europea, dobbiamo essere coerenti per la credibilità, non c'è un unico ministro nell'area euro ma 19 ministri, e poi non siamo ancora, questa è la frase incriminata che ha suscitato le ire di Renzi e di Calenda, non siamo ancora abbastanza stabili per lasciarci andare a questo tipo di traiettoria fiscale, cioè quella indicata dalla Commissione Europea di uno 0,5% in più di scostamento, 50 miliardi in più. Sentiamo questo passaggio. The Eurozone doesn't actually have a minister of finance, it has 19 ministers of finance and La zona euro non ha un solo ministro delle finanze, ne ha 19 e si ritrovano in un incontro chiamato Eurogruppo. Credo che si debba essere precisi. La Commissione ha ogni diritto di avanzare raccomandazioni alla zona euro nel suo insieme. Queste possono riguardare le linee di politiche di bilancio e si può discutere se, nella sostanza, siano i suggerimenti giusti. Alcuni potrebbero dire che, visto il ciclo economico in cui ci troviamo, in alcuni paesi non è saggio stimolare ulteriormente con politiche di bilancio. Questo direi che è il senso della discussione che avremo presto all'Eurogruppo. Non credo sia utile discutere se la Commissione può dire certe cose o no. Io penso che le sia assolutamente consentito. Quello che dirò sempre alla Commissione è che deve rendersi conto che se c'è un conflitto tra restare all'interno delle regole contenute nel patto e le raccomandazioni sulle politiche di bilancio, allora siamo in una situazione complicata. E questo potrebbe essere il caso attuale, soprattutto se la politica di bilancio è espansionistica. Voglio solo essere sicuro che la Commissione rispetti il patto, il che significa che gradualmente dobbiamo arrivare all'obiettivo di bilanci in equilibrio. Non siamo ancora abbastanza stabili, i bilanci non sono solidi abbastanza per lasciarci andare a questo tipo di traiettoria fiscale. Questo è il dibattito che avremo all'Eurogruppo. Beh, se questo è il dibattito butta male l'Eurogruppo, perché se il Presidente dice non siamo ancora abbastanza solidi per lasciare le briglie e l'Italia chiede, non solo l'Italia, anche la Francia, invece meno austerità e più investimenti, non ci siamo. Tant'è che ha subito risposto il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, andando giù abbastanza da piatto, come si dice in gergo. Credo che non abbia grande consapevolezza di come funzionano le cose in Italia, ma il giorno dopo il referendum, se le cose andranno bene, io chiederò al Parlamento di essere autorizzato a mettere il veto sul bilancio europeo se l'Europa non inizia a occuparsi seriamente dei migranti. Perché noi cerchiamo di salvare tutti perché è giusto e umano, ma non possiamo accogliere tutti noi. E allora bisogna essere molto chiari. Se l'Europa vuole i soldi italiani, deve iniziare a rispettare gli impegni sull'immigrazione. Che parlino di questi i leader europei, anziché riempirsi la bocca di cose che non conoscono. È ancora più piatto il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, che ha detto di Seblum. Alcuni mi correggono sull'olandese, chiedo venia, disse Bloom, sta prendendo una gigantesca cantonata, cosa che fa abbastanza regolarmente, continua Calenda, non comprende che le questioni non sono i vincoli di bilancio, ma il fatto che l'Europa è in mezzo a sfide difficilissime, e prima delle quali è la chiarissima disaffezione dei cittadini, e ha necessità di fare un grande piano di investimenti per trasformarla, e serve un New Deal a livello europeo. Adriana Cerretelli, buonasera, l'editorialista del Sole 24 da Bruxelles, che proprio qualche giorno fa, il 25, scriveva: se l'Italia rischia i colpi del ritorno dell'austerity, tu ti riferivi all'uscita di scena di Martin Schulz, che va a correre probabilmente, no, per la campagna elettorale tedesca. Qua mi sembra che il problema sia del mitico Dijsselbloem o Dijsselbloem, che ci aveva abituato già a delle frasi un pochino stravaganti. Io mi sono fatto tirare fuori da Mauro Del Conno e Barbara Bianchi queste agenzie del 2013, 21 gennaio. Allora, l'austerità porta crescita, era già presidente dell'Eurogruppo. Questa Jerome Dijsselbloem. L'austerità porta crescita. Ritengo che austerity e conti in pareggio siano importanti perché significano più investimenti e possibilità di crescita. E poi nel 2015 ha imposto ancora austerità alla Grecia per il voto, per il no. Il no è deplorevole, definì il voto greco. Caro Dijsselbloem, il voto non si commenta, il voto non è mai deplorevole. No o sì, così ci portiamo avanti anche per lunedì prossimo, ok? Il voto è il voto, abbi pazienza, Dijsselbloem. Poi ancora, il 22 aprile 2016, il mitico Jerome Dijsselbloem: in Grecia serve austerity, perché fino adesso hanno avuto che cosa? Le helicopter money? I soldi lanciati all'elicottero? Boh. Adriana, resisti ancora 3 minuti, perché poi vorrei la tua opinione su questo nuovo scontro Bruxelles-Roma. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Eolo, internet ultraveloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Allora, mentre c'è un ascoltatore che continua a dirmi: ma guardi che la Germania sta riducendo da sei trimestri il surplus commerciale, ma che dice? Mi scusi, la Germania, ultimo dato dell'8 novembre 2016, continua a aumentare il surplus, l'avanzo della sua bilancia commerciale, cosa che non va bene perché c'è una regola europea, non dovrebbe essere più del 6% del PIL, è passato a 24 miliardi di euro l'avanzo commerciale a novembre contro i 21 miliardi di ottobre. Gli attesi degli analisti erano un surplus di 23 miliardi e 24 miliardi e mezzo. Allora Adriana, la battuta viene facile, te la faccio subito, ma a Renzi e all'Italia fa più male la polemica con Dijsselbloem o l'appoggio di Schäuble al sì e alle riforme di Renzi, visto che mi sembra che Schäuble sia un po' il bacio della morte? Prego, Adriana. Ma io trovo che è una polemica come sempre mal posta, nel senso che noi stiamo vivendo, noi come paese Italia, un momento molto difficile e l'Europa pure, però se noi teniamo conto del monumentale debito pubblico che abbiamo, purtroppo siamo ostaggio dei mercati. E quindi quando i paesi del nord dicono fermo là, siamo attenti a fare delle politiche espansive, da una parte sembrano perpetuare, se si vuole, le difficoltà economiche dell'Italia e di una parte dell'Europa, ma dall'altra puntano alla stabilità. Perché la stabilità? Perché l'Italia non è la Grecia. Se lunedì, martedì succedesse un patatrac, gli spread cominciassero a salire, le banche entrassero in serissima difficoltà, eccetera, eccetera, il problema diventerebbe ingestibile. Mm-hmm. E quindi l'Europa si preoccupa, perché non avrebbe con il Fondo Salva Stato i fondi per tenerci in piedi. E quindi diciamo che noi stiamo viaggiando veramente sull'orlo di un baratro e speriamo naturalmente di scamparla, però è ovvio che da una parte c'è necessità di politica espansiva in Europa, perché l'Europa continua a far fatica a rilanciare l'economia. D'altra parte, nella situazione attuale non c'è dubbio che quando si chiede, come fa la Commissione, di fare una politica espansiva, sostanzialmente si dice all'Olanda e alla Germania, che sono gli unici due paesi che hanno veramente dei surplus diciamo pari all'8-8,5% del PIL, dunque dei surplus più che abbondanti, di investire i loro soldi nella ripresa. Questo è un braccio di ferro che è anche una questione non solo di politica economica, ma un braccio di ferro sul potere di chi decide. L'Europa diventa sempre più intergovernativa, dunque Dijsselbloem, quando risponde in questo modo, dice: se io voglio fare espansione, la faccio io, non perché me lo chiede Bruxelles. La fa l'Eurogruppo, perché decide l'Eurogruppo, non Bruxelles. Quindi è una partita estremamente complicata questa, no? Da una parte c'è l'egoismo, naturalmente, di chi non ha voglia di investire, perché non si capisce neanche perché farebbe bene pure a loro. Ma comunque non voglio investire. Ma in ogni caso loro ti dicono: se io investo, lo decido io, non me lo dici tu. Bruxelles va bene come potere sovranazionale per tenere le discipline di bilancio, non per fare politica economica. Quindi come il famoso 6%, che sarebbe il tetto diciamo teoricamente invalicabile per il surplus, non rientra tra le regole del patto di stabilità, bensì rientra nelle regole del semestre europeo, che non sono vincolanti, i paesi del nord ti dicono: no caro, tu fai il tuo lavoro di guardiano delle regole del trattato, il resto è competenza di altri, non vostra. Allora, tradotto, no, no, due o tre punti importanti che tu hai citato. Il primo, lo dico perché tu non so se lo sai, ma qua il clima sul referendum è pesantino. Allora, non era un endorsement, un appoggio di Adriana Ceretelli per il sì, perché non l'avrei mai fatto fare in questo programma e oltre che tutto siamo anche in par condicio, ma non l'abbiamo mai fatto. È un ragionamento diverso che cercavo di spiegare ieri. Dobbiamo ragionare da giornalisti, così dati di fatto. C'è turbolenza sui mercati che riguarda i mercati italiani, titoli di Stato, spread, azioni, banche italiane, perché sul referendum si va a speculare in primo luogo e perché c'è il timore che se si apre una crisi al buio, come si chiamava una volta, di governo, se si dovesse aprire una crisi al buio, non vi sarebbe la forza per fare gli aumenti di capitale delle banche, per avere la forza per garantire, nel caso andassero male gli aumenti di capitale, un salvataggio di Stato per le incertezze e perché ci sono tanti soldi in giro, tanta liquidità che non vede l'ora di avere qualche spunto per speculare. Questa roba è un dato di fatto, non è un dire quindi devi votare sì o quindi devi votare no, è un dato di fatto. Ieri Monte dei Paschi ha perso il 13, oggi guadagna il 17. Come cavolo la chiamiamo questa se non speculazione? La chiamiamo Maria? Allora, questo è il dato di fatto. Adriana Ceretelli stava semplicemente dicendo che da questo punto di vista il rischio è fortissimo se dopo l'esito del voto si dovesse creare una situazione di estrema incertezza e speculazione e, diciamo, prendere di mira l'Italia, come accadde non nella parte finale del governo Berlusconi ma anche durante la crisi greca. E questo è un fronte. L'altro fronte che mi sembra molto interessante, che tu evidenziavi, è il fatto che questa è una polemica anche tra Bruxelles e i governi dei vari paesi dell'euro, che dicono a Bruxelles: tu fai ragioniere sui conti, non ci rompe le scatole, decidiamo noi politicamente come singoli ministri delle finanze o presidente del consiglio quando ci vedremo per l'eurogruppo se dare o no maggiore flessibilità. Tu devi fare il ragioniere e dare la certificazione ai bilanci dei vari paesi, non ti occupare di politiche economiche. Dopo il traffico però ti chiedo, condividendo il tuo ragionamento, ma non è questo un ulteriore modo per far morire quel poco che resta dell'Europa? Traffico. Eolo, internet ultra veloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta Focus Economia. Allora, due risposte velocissime. La Spagna è stato un anno senza governo, scrivono alcuni, e ha avuto due elezioni in un anno. Sì, ragazzi, non ha il nostro debito e soprattutto non deve fare almeno 15 miliardi di aumenti di capitale bancario, e questo è il problema. Monte dei Paschi sono 5 miliardi, Unicredito se va bene sono 10 miliardi. Questo è il timore e le praterie della speculazione. Seconda domanda, è colpa anche dei nostri politicanti se abbiamo caricato di questo significato speculativo il referendum? Sì, ieri criticavamo il Presidente del Consiglio che era legato alla sua permanenza facendo un errore clamoroso che poi ha ammesso. Devo dire che anche il fatto che Grillo e Salvini dicono ogni 3x2 che se fosse per loro usciremo dall'euro non aiuta, anzi aiuta moltissimo la speculazione su quello che capiterà in Italia dopo. Allora ognuno si assuma la responsabilità, non è che le cavolate le spara solo uno, le spara anche chi dice ma sì, tanto usciremo dall'euro, come se non capitasse nulla. In Grecia, solo per esserci arrivati vicini, gli hanno bloccato i bancomati, i pensionati ritiravano 60 euro. Oggi non ce la faccio più con questo referendum. Adriana Ceretelli, a questo punto non è un ulteriore indebolimento dell'Europa se tutto verrà deciso dall'Eurogruppo? No, non lo è, perché voglio dire, l'Eurogruppo è il gruppo di paesi dell'Euro i cui ministri hanno l'incarico di decidere la vita dell'Eurozona, sia per quanto riguarda i conti pubblici, sia per quanto riguarda la ripresa. Ma io quello che vorrei dire, e quindi diciamo non c'è nessuna novità in tutto questo, il problema non è tanto quello che decide l'Eurogruppo, ma sono le divergenze dentro all'area euro. Noi abbiamo una politica monetaria unica, ma abbiamo 19 politiche di bilancio diverse, 19 situazioni diverse, per cui alcuni paesi come il nostro hanno un debito monumentale e purtroppo, quello che dicevo prima, siamo ostaggio dei mercati, ma cioè finché noi non riusciremo a abbattere il nostro debito, noi saremo sempre a sovranità limitata dai mercati. Sono d'accordissimo con te, Adriana. Devo chiudere. Grazie anche a Adriana Ceretelli in collegamento con noi da Bruxelles. Ci risentiamo dopo il GR24, parliamo di borsa e di banche italiane a proposito. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Parliamo adesso di borsa e poi di banche. Più, in realtà il tema è contiguo oggi. Più 2,13% Milano, nettamente la migliore. Parigi più 0,90, Francoforte più 0,30, Londra meno 0,40, Dow Jones più 0,20, euro quota 1,06. Che le banche italiane, come abbiamo detto all'inizio, siano oggetto di una speculazione totale in questo momento e anche in alcuni casi ingiustificata. Lo si capisce da quello che è successo tra ieri e oggi, è proprio la versione plastica della cosa. Ieri Monte dei Paschi perde più del 13%, oggi guadagna 17,40%. Che cosa è successo tra ieri e oggi? Nulla. Ieri Ubibanca e le Popolari perdono tra il 3-4-5%, oggi guadagnano tra il 3-4-5%. Cosa è successo? Nulla. Allora, Ubibanca più 5,81, Popolare Emilia Romagna più 5,40, Intesa San Paolo più 4,20, ieri ha perso verso il 3%, oggi guadagna il 4,20, Mediobanca più 4,20, Pop Milano più 4,20, Unipol più 4,20, Banco Popolare più 4,1 e ancora, chiudendo sulle banche, Unicredit più 3%. Bene, anche Generali più 2,80, tra i non bancari spicca Ferragamo più 4% e ancora Poste Italiane più 4, Atlantia più 3,5% di negativo, Tenaris meno 1,40, Saipem meno 1%, Brembo meno 0,40%, ciao Condina, Radio Corri Sole 24 ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. L'archiviamo come speculazione totale in attesa del referendum? Sì, direi di sì. Sui mercati c'è molto nervosismo, a Milano ieri c'erano state fortissime vendite sulle banche, oggi il più classico dei rimbalzi, anche se a metà pomeriggio sono comunque circolate delle indiscrezioni sui mercati di un possibile intervento mirato della BCE su titoli di Stato italiani in caso di no del referendum. Questo ha favorito diciamo in particolare gli istituti più a rischio, quindi il Monte dei Paschi, che infatti è schizzato e ha chiuso più 17%, ma anche Banca Carige, che per esempio ha chiuso con un rialzo superiore al 5%. Sì, devo dire che per essere proprio precisi, la BCE ha fatto trapelare che è pronta nel brevissimo a comprare i titoli di Stato italiano se dovessero esserci tali tensioni il giorno dopo il referendum da far schizzare i rendimenti e quindi creare dei problemi a chi queste obbligazioni le ha in pancia, perché quando aumentano i rendimenti si abbassa il prezzo. Se tu sei una banca e hai miliardi di obbligazioni in pancia, è chiaro che ne hai una penalizzazione, con la conseguenza che il titolo avrebbe poi abbattuto in borsa. Però la BCE ha anche detto questo nel breve, nell'immediato. Se invece i problemi dovessero restare, l'Italia deve passare per la richiesta di aiuti ISM, come tutti i paesi, quindi gli aiuti al sistema, diciamo, al fondo di salvataggio europeo, chiamiamolo così. Sugli altri titoli invece mi sembra che l'altro grosso tema sia il petrolio, quindi il nulla di fatto a cui si prepara l'incontro dell'OPEC di domani, no? Sì, assolutamente, per l'ennesima volta grandi attese, ma probabilmente la montagna partorirà un topolino, anche perché l'Iran oggi si è detto ancora una volta contrario a tagliare la produzione, quindi sul greggio sono arrivati dei fortissimi realizzi. In questo momento il WTI in New York perde il 3,5%, è nuovamente vicino ai $45 al barile, hanno pagato dazio tutti i titoli legati alle materie prime, al petrolio in particolare sulle borse. Milano Tenaris perde 1,5%, Saipem l'1%, Eni era stata negativa per buona parte di seduta, chiusa più 0,6%, comunque ben al di sotto del più 2,1% del FTSE MIB. Ancora per quello che riguarda altri titoli, notiamo da questo punto di vista in rialzo Ferragamo, l'abbiamo citato come titolo non bancario, anche Moncler bene più 2,60%, Exor più 2,70%, Telecom più 2,80%. Ancora in assoluto tra i migliori e peggiori, oltre a Monte dei Paschi, Stefanel più 9,50%, Brioschi più 6,70%, City Biofarma più 6,50%, RCS Media Group più 6,14%, e poi Ubibanca e Cassa di Risparmio di Genova che tu citavi. Fronte opposto invece Mail Up meno 6,70, Energy Lab meno 5,90, Club meno 5,20, Beyond meno 4,60%. Stefanel. Stefanel, come sappiamo, vive grosse difficoltà, concordato. Concordato preventivo. In questi giorni tuttavia ci sono degli investitori che sembrano essere interessati comunque ad accollarsi il debito della società e a rilanciarla. Ce n'era uno che era il fondo Oxy, ieri la società ha comunicato che ce n'è un altro, anche se non ha specificato l'identità di questa società, e quindi il titolo oggi ha, diciamo, goduto di questa notizia. Era arrivato a guadagnare anche il 18%, poi alla fine ha ripiegato a più 9,5%. Allora, dell'euro abbiamo detto, volete sapere l'aggiornamento degli Stati Uniti? Pensavo di averlo detto, chiudo Venia, più 0,15% in questo momento, grazie anche a Ceo Condina, a chi mi scrive, è probabilissimo che continueremo a ballare così fino al 5, poi vedremo anche dopo il 5, ripeto, le variabili in gioco sono tantissime, non è solo sì o no, e comunque il dato di fatto è questo, quello che vedete sui mercati, bisognerà capire anche le proporzioni del sì o le proporzioni del no, e anche quali saranno le scelte politiche del governo, perché sullo sfondo c'è l'incertezza politica, non la riforma costituzionale, ma l'incertezza politica. Perché, mi chiedete, delle banche? Perché il ragionamento che il mercato fa è: in caso di incertezza politica, a questo punto sarebbe più difficile o più incerto capire cosa potrebbe fare lo Stato italiano come garanzia finale per le banche nel caso che gli aumenti di capitale non dovessero andare a buon fine. C'è molto di aleatorio in tutto questo ragionamento, ma ecco perché parliamo di speculazione e non di, diciamo, scelte razionali, logiche di medio periodo. Certo che c'è molto di aleatorio e quindi di speculativo. Comunque, grazie a Ceo Condina, restiamo in realtà su questo tema, con cui vorrei introdurre il doppio fronte di quanto accaduto ieri, che abbiamo commentato e che oggi ha su Sole 24 Ore un'analisi molto lucida di Alessandro Graziani, e anche però l'analisi che ha introdotto sempre su Sole 24 Ore di oggi l'editorialista nonché docente di politica monetaria alla Bocconi di Milano, Donato Masciandaro, sulla situazione più generale in cui si stanno trovando le banche centrali di mezzo mondo. Allora, nel ringraziare Donato Masciandaro, buonasera professore. Buonasera. La sento cupo. Oggi le banche hanno rimbalzato, Masciandaro. No, è solo un raffreddore. No, vabbè, è solo un raffreddore. Speriamo che sia solo un raffreddore anche quello dei mercati. Voilà. Allora, prima di tutto un commento, non posso non chiederglielo al tema che ieri abbiamo trattato, che era chiaramente su tutti i giornali, l'analisi del Financial Times e queste continue analisi, diciamo, della stampa anglosassone, l'Economist che dice che non cambia nulla, il Financial se vincono, no, il Financial Times che dice no, addirittura sono a rischio le 8 banche. Devo dire che io non ho trovato questa grande analisi ieri, ma vorrei sapere la sua opinione. La differenza tra il latte e la panna. Il latte è quello che anche lei, io ho sentito gli ultimi secondi dell'intervento, ma credo che stia continuando a raccontare in questi giorni, vale a dire che ci sono dei dati, ci sono delle cose che possiamo escludere, cioè una situazione di rischio sistemico, ci sono alcuni casi aziendali, che però sono casi aziendali, questo è il latte. E poi c'è la panna. Credo che lei l'abbia già detto, c'è la panna che si monta perché ormai con tanta liquidità in giro c'è chi guadagna da un secondo all'altro, quindi non è rilevante se la notizia sia vera, è rilevante che ci sia una notizia. Allora sì, devo dire che questa panna anche noi abbiamo contribuito a farla montare un po', no? Con errori sia sul fronte governativo che ricordavo ieri, sia sul fronte diciamo di chi sostiene il sì, sia di chi sostiene il no, da un lato nel legare tutto il futuro politico a un voto su una riforma costituzionale, nell'altro anche nel dire così a cuor leggero, a mio avviso, tanto se vinciamo noi poi siamo un nuovo governo e si esce dall'Europa, così come se fosse una merendina da prendere durante la pausa e la campanella. Detto questo, è ovvio, ma Masciandaro, questo è anche il frutto dell'eccesso di liquidità che c'è in giro sui mercati, però che non sa dove andare. Sì, nel senso che è liquidità alla disperata di notizia, alla disperata ricerca di notizia su cui scommettere. E se non c'è la notizia, la notizia si crea in maniera lecita o in maniera più o meno, borderline, ecco. Credo che voi viviate quotidianamente questa realtà di notizie che si sgonfiano da un secondo all'altro. Basta vedere quello che è successo sui mercati dopo le grandi sorprese: la Brexit era una sorpresa, Trump era una sorpresa, alla fine sono stati dei rimbalzi da gatto morto. Sono d'accordo, infatti non capisco chi mi scrive ancora tre giorni di terrorismo, Barisoni. Ma quale terrorismo? Stiamo dicendo che questa è speculazione, che il voto del referendum, lo stiamo dicendo da settimane, non cambierà l'economia italiana a breve, nel medio lungo termine non lo so, ma a breve, cioè il PIL del 2017 non si basa sulla riforma costituzionale, che la speculazione dobbiamo attendercela perché, come diceva anche il professor Masciandaro, da questo punto di vista tutta questa liquidità non vede l'ora di avere un pretesto per andare a vendere o comprare a breve, e insomma, non capisco quale sia il terrorismo. Un terrorismo se si riferisce all'uscita dall'euro, ma lì non è terrorismo, guardi, lì proprio, secondo me, è follia nel proclamarla in maniera così leggera. Questo posso dirlo con tranquillità, visto che la Gran Bretagna non riesce neanche a decidersi, e manco l'euro aveva, su come fare a uscire dall'Unione Europea. Guarda, ogni tanto sento commentatori che dicono: ma sì, usciamo dall'euro e tutto si sistema il giorno dopo. Certo, a partire dal debito e dai rendimenti obbligazionari, e lì saltano veramente le banche, ma tanto non capiterà, per cui non ragioniamo dell'ipotesi. Vorrei capire qual è la sua preoccupazione invece, professor Masciandaro, sulle banche centrali dopo il traffico. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Focus Economia. Allora, professor Masciandaro, lei oggi scrive su Sole 24 Ore la trincea dei banchieri centrali sotto attacco, riferendosi a Mario Draghi, quindi Banca Centrale Europea, Janet Yellen, e quindi chiaramente Federal Reserve, e Mark Carney, Bank of England. Sono sotto attacco, però subiscono tre attacchi molto diversi tra loro, professore. Assolutamente sì, gli attacchi sono diversi, hanno in comune il fatto che i banchieri centrali stanno soffrendo di quella che viene chiamata la maledizione del vincitore, cioè credi di aver vinto, nel senso, per le banche centrali, credi hai visto il tuo perimetro di competenze allargarsi in maniera assolutamente non convenzionale, ma poi ti rendi conto che questo tuo allargamento non sta rafforzando la tua capacità di fare il tuo mestiere principale, cioè gestire la politica monetaria, ma probabilmente ti sta indebolendo. Quindi ragioni di attacco diverso, ma c'è una storia comune. Ma questo cosa vuol dire? Perché fino adesso una cosa che ha funzionato abbastanza è stato il coordinamento tra le banche centrali, aggiungo anche la Banca Centrale del Giappone, cioè mentre Draghi si è mosso da solo, non ha avuto un corrispettivo politico in Europa, cioè lui ha stampato moneta, ha ridotto i tassi a zero, ha creato grande liquidità, ma poi questa liquidità, a differenza di quanto è successo negli Stati Uniti, non è stata assorbita dagli investimenti anche di carattere pubblico. Però almeno una cosa l'avevamo ottenuta come gestione della crisi, del post-crisi: il coordinamento tra le banche centrali, per cui si parlavano, si avvisavano, la Yellen mesi e mesi e mesi che ha messo in guardia, ha parlato con Draghi e i suoi omologhi giapponese e inglese del rialzo dei tassi di interesse. Lei teme che possa venire meno questo coordinamento? Devo dire che più di un coordinamento c'è stata una chiara attribuzione di ruoli nei fatti, nel senso che c'è una banca centrale leader, che è la Federal Reserve, che non dice quello che fa, e gli altri hanno abbozzato. Perché alla fine è stato così, c'è una banca centrale che, da quando è arrivata la Yellen, di fatto ha azzerato il suo grado di trasparenza, non ha una regola di condotta, e le altre banche centrali si sono accodate, nel senso prendono atto di quello che fa, o meglio, e di quello che non dice la banca centrale americana, e poi si regolano di conseguenza, alcune in maniera silenziosa, perché alla fine i costi non ci sono. la Banca Centrale Europea vede un euro, tendenzialmente più il dollaro si rivaluterà, più non ci saranno svantaggi. Non sono così felici i banchieri centrali, per esempio, dei paesi emergenti, non sono affatto felici, anzi direi che sono tra l'arrabbiato e il preoccupato, quindi non parlerei proprio di coordinamento, ecco. Senta, invece, tornando al tema europeo e al tema anche delle banche italiane, che lo dico di nuovo, il 5 dicembre il sole sorgerà alle 7.58, mi sembra, se vado a memoria, forse un po' tardi, un po' prima, va bene, sorgerà un po' prima, adesso vado a controllare quando sorge il sole, lunedì 5, il mondo andrà avanti, non che ci sarà la speculazione. In edicola ci sarà il sole 24 ore. In edicola ci sarà il sole 24 ore, in edizione speciale, Radio 24 sarà in onda, adesso mi faccio dei gesti scaramantici perché non vorrei tirarmela, però nulla cambierà. Ecco, guardate, sto parlando e adesso il Wall Street Journal sul Monte dei Paschi scrive e sta arrivando il giorno del giudizio. Vedi, perché poi uno non ce la fa, non ce la può fare a cercare di mettere un po' di ordine quando poi la stessa stampa anglosassone continua a buttare benzina sul fuoco. Il giorno del giudizio, il giorno in cui devono trovare 5 miliardi, Maciandaro, è il giorno del giudizio. Però, insomma, su questo un po' di speculazione ce la terremo e poi vedremo cosa succederà. Siamo usciti da tante situazioni critiche, usciremo anche eventualmente da questa. Lei è così, diciamo, cautamente, non dico ottimista, ma insomma, nervi saldi come cerco di essere io, oppure no? Ma assolutamente sì. Credo che lei ed io leggiamo gli editoriali di Munchau, se l'ho pronunciato bene. Munchau oltre un anno fa scrisse che l'Europa aveva tre problemi, aveva l'immigrazione, aveva la Brexit e cito a memoria, the quasi insolvent state of Italian banks, lo stato quasi di insolvenza delle banche italiane, lo scriveva un anno fa, quindi è un disco rotto, il problema è che probabilmente lei ed io ci accorgiamo che è un disco rotto, ma poiché la panna conviene, questo disco rotto continua a suonare. E ad alimentare un giro di valzer fatto di panna. Sì, l'Europa avrà anche tre problemi, ma il Financial Times ne ha uno che si chiama Munchau, che non ha beccato un'analisi negli ultimi anni. Lo dico anche sulla Brexit, lo dico anche su Trump e quant'altro. Senta, però al di là di quello che sarà il voto di sto cavolo di referendum, il problema delle banche italiane dobbiamo affrontarlo a un certo momento. Allora, oggi abbiamo avuto notizia del consorzio di garanzia su Unicredit. Monte dei Paschi ha fatto la conversione al raggruppamento azionario. Secondo lei, diciamo, al di là, lasciamo stare il referendum per un attimo, quando è che potremo capire se tutto va, diciamo, come dovrebbe andare sul fronte aumenti di capitale e ripatrimonializzazione delle banche italiane che devono ripatrimonializzare? Beh, credo quando finalmente ciascuno farà il suo dovere, partendo dalle regole dell'Unione che ancora non sono state definite, e credo che più di un pomeriggio avete toccato le ragioni di questo ritardo. Nel nostro perimetro nazionale credo che il vantaggio è che i casi da seguire siano stati identificati. Se si ha tempo, e il tempo lo si avrà ancora, perché non credo di meravigliare nessuno dicendo che probabilmente la politica monetaria europea continuerà. Beh, se continuerà la politica monetaria europea espansiva, i tassi saranno bassi, questo consente di comprare tempo. Se si compra tempo, si potranno fare quelle operazioni misto pubblico-privato che alla fine sono quelle che dovrebbero definitivamente risolvere il problema dei crediti in sofferenza. Mi scusi, cosa intende l'operazione misto pubblico-privato? Dico che quando parliamo, per esempio, Atlante, nasce Atlante, che è un'iniziativa privata, apro la parentesi, ieri sul Financial Times era definita un'iniziativa dello Stato italiano, sì, è falso. La parentesi, ma negli stessi giorni il governo definisce un pacchetto di provvedimenti che aumentano l'efficienza delle procedure giudiziali, beh, questo è un esempio concreto nei fatti di pubblico e privato. In più, quando più le regole pubbliche, da quelle bancarie a quelle sulle risoluzioni, saranno chiare e non saranno più lasciate all'arbitrio di oscuri funzionari di Bruxelles, stiamo parlando dei commissari, stiamo parlando di oscuri funzionari che non si sa in base a quali regole decidono se qualcosa è aiuto di Stato o meno. Del servizio all'EBA, quindi. L'EBA finora il contributo che ha dato alla stabilità è far aumentare l'instabilità ogni volta che tira fuori i suoi famosi stress test. Questo è finora il contributo che ha dato l'EBA alla stabilità. Allora. Grazie a Donato Masciandaro. Tanto so già, no, ogni tanto sospiro perché vedo dei messaggi che navi in fiamme al largo di Orione, niente, cioè qua siamo al delirio referendario, non si riesce a fare un ragionamento, a fare un tutto. Cosa voti, Barito? Ma cosa te ne frega cosa voto? Allora, si riesce più a parlare di economia e di finanza, arriverà il 5. Grazie anche a Donato Masciandaro. Il mercato americano guadagna lo 0,16%, per chi me lo chiede che si è appena messo in collegamento, ha fatto più 2% la borsa di Milano, il Monte dei Paschi più 17,5% senza una notizia che fosse una. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.